bisogno qui, vieni. Siete la mia croce, siete la mia croce, sì? Chi è? Croscia, la sigaretta. Al momento che siamo in casa, lasciare un messaggio. Dai, la sigaretta per favore, dai, lascia, croce. Siamo al momento occupati. Ti preghiamo di rimanere in attesa. Bentornati a chi ci ama, ci segua. Guarda, cazzo, guarda! Abbiamo solo le mani, non possiamo! Sono al mare assosito! Croce, dai sigaretta, dai! Dai la sigaretta! Dai, dai sigaretta! Una bella sigaretta! Ascolta! Sono la garante delle libertà e dei diritti. No! Guarda cazzo! Brucia! Ma la vedo! Ma respiro! Ma respiro, brucia! Ma lascia, vedi, croce, male, male! Ma non deve fare, non deve fare, male, non c'è, non c'è! Croce, vieni fuori, vieni fuori, fuori, fuori, fuori, fuori! L'ospite entra dal cancello grande. Lo accompagna la polizia e noi siamo già allerta. Da qui si entra, prego, per di qui. Noi sempre al suo fianco. Iniziamo a preparare la celletta sotto. E lui sosta lì. Entra, sala perquisa. Mettiti giù, via i vestiti. No, no, lo tengono in due. Perquisizione. Oh, l'ufficio immigrazione gli fa la fotografia con la macchina digitale. Mettiti lì. Fa la foto, scheda nuovo ospite. Poi, dottore, ta-da! L'idoneità. Ti droghi, prendi alcol, fumi, idoneo. Porto il foglio, ci sono sempre io. Il dottore mi dà il foglio, io vado dal caposquadra. Guarda che sta arrivando, te lo porto. Sì, portamelo. Oh, ufficio caposquadra. L'ospite lascia lì le sue cose e gli diamo il suo sacco nero lì. E io gli spiego un attimo velocemente come funziona qui. Hai cellulare? Roba di valore? Sì, no, fotocamera? La devi rompere. Sei già stato qui? No, no. Il cellulare? Ti ricordo che si rompe la telecamera all'ingresso, lo vuoi? Sì. Però fotocamera no dentro. Ti metti lì col cacciavite, colpo secco, lo danno loro. E si va. Fianchetto, per essere sicuri. Si fa la prova per essere sicuri. Davanti al finanziere, il poliziotto. Vediamo. Non si vede niente. Molti dicono no, no, no, no, no, no, no, no. E poi, dopo un giorno, voglio il cellulare. Perché? Poi il regolamento, se c'è il regolamento, ma l'ultima volta non gliel'abbiamo nemmeno dato, che era vecchio. E poi l'area è già assegnata, area gialla, e ce lo porti. Noi sempre al suo fianco. Area gialla, vai, accompagnalo pure. Lo accompagni, apri, chiudi, dentro. Vedi dove è libero. Ti metti qua, stanza 5. Lo comunichi. Lo comunichi perché lì bisogna aggiungere un pasto nella stanza 5. Se no, lo devi comunicare. Stanza 5, pasto, ok, stanza 5. Viene aggiornato il prospetto totale ospiti. Apri, chiudi, chiudi il cancello. Ciao. Umanamente, secondo me, una persona qui dentro un anno e mezzo non ci può stare. umanamente, dico voi. Date tempo al tempo. Per l'ospite normale, cosa ci deve fare lui in un anno? Chi è maturo qui, sta zitto e basta. Tanto non deve morire. Deve solo stare. Nella stessa area, vestito, pettinato, comodamente reclinato in avanti con la sua tazza di caffè. E quello solubile, non quello della mucca. Non siamo mica in albergo. Li trattiamo tutti uguali. Cos'hai? È mio! L'hai rubato, l'ospite! Stringe il palmo sbiadito. Il suo zucchero. Mamma, quanto zucchero! Perché siccome l'ospite non può prendere, per la mortecine, l'ospite riceve da noi il caffè. Noi gli diamo lo zucchero, offriamo zucchero e ginnastica 3 volte a settimana. Il problema non è andare, per carità. Il problema è che l'ospite non dice sottovoce: per favore, poi potrei avere dell'altro zucchero? Tesoro, la mensa è apparecchiata, il latte è caldo, le ciotole sono cariche di zucchero. Manciate bianche e immobili depositate sul fondo delle tazze. Noi diciamo, ma com'è possibile? Ma come è possibile che si prendano tutto questo zucchero? E ne chiedono ancora, oh, croce, croce. E si lamentano, allora ci sono tante cose da fare. Quindi noi partiamo, prendiamo lo zucchero, torniamo, partiamo lo zucchero. Ma l'ospite vede a chi lo porti, sa che potrebbe e lo desidera. Quindi noi ripartiamo, prendiamo lo zucchero, torniamo, partiamo lo zucchero. Più vivo, più mai di sol, più vivo, roseggio e bambè. Portiamo lo zucchero. Prendete questo zucchero, eh? Eccolo. Spezzate questo pane. All'ospite gli dai così e si prende tanto così. E purtroppo c'è gente bravissima, eh? Ma qui è una situazione di massa. Non puoi considerare il singolo. Non sanno quello che fanno. Noi diciamo, venite, avanti, avanti, venite, venite, ma se ve lo prendete tra di voi, ma smettetela di fare i turbi tra di voi. Chiedete e vi sarà dato, no? Noi schiudiamo le braccia, noi li accogliamo, noi schiudiamo le braccia. E loro vanno lì, rompono, vanno in massa, si fottono la roba tra di loro, tra animali. Croce, manca la roba, mancano i biscotti. Noi facciamo tutto. Tutto è impossibile. E tante volte sono impossibili, seduti tutti alla stessa mensa, quando siamo tutti nella stessa barca. Prendete. Mangiate! E loro arrivano. Guarda, guarda quanti sono. Se ne stanno lì, seduti, con i pugni che sbattono sul tavolo e le labbra sporche. Il zucchero. E arrivano i bambini. O mangi questa minestra, o ti butti dalla finestra. Ho fame, e alla fine lo buttano per te, e diciamo, si lanciano sotto la mensa, voi siete i nostri ospiti. C'è sempre qualcuno che ha voglia di scherzare, eh? E va bene. Resta un croce per la banda. Croce? Io? Ho sposato la causa. In principio fu l'annuncio. Madame Garante presente, agenzia Ognuno ha la sua croce. Le avventure di Sospirosa. La bambina sospirosa cerca sempre un lavoretto, ma più cerca e più non trova se ne sta depressa a letto. La scimmietta nella stanza batte i denti e guarda in su. Madame G, signora G, per favore, pensaci tu. Sospirosa fa il colloquio e sorride a denti stretti. La scimmietta si ammaestra con un pugno di confetti. Brava, brava Sospirosa, quante cose sai far tu. Qui la vita è sempre rosa solo quando ci sei tu. Agenzia interinale, annuncio. Io rispondo e loro mi danno la divisa. E tutto il pacchetto. Devi avere un non so che. Devi avere un nessuno lo sa che cosa devi avere. Mi ha chiamato il colonnello. Guarda che il prossimo mese ti prende di fiere. No, io di Berlino mi sono toccata, mi sono segnata. E no, io la volontaria non la faccio. No. No. E infatti qui non siamo volontari, nel senso che non siamo pagati, eh. Siamo volontari, pagati, stipendio, agenzia, ferie. Sentivo certe storie su questo posto. I requisiti, mi dicevo. Io i requisiti di primo soccorso ce li ho. I requisiti. Ma qui è un lavoro che chiunque può. Ma che chiunque può fare? I requisiti, il corso di studi, la specializzazione. Ma se al Cile ci lavora anche gente che non ha fatto nemmeno il corso di primo soccorso. Siamo tutti interinali. Abbiamo tante mansioni, eh? Assistenza generale. Accogliere ospiti. Spostamento ospiti, quindi. Accogli l'ospite, apri, chiudi, sposta ospite, segui lo spostamento dell'ospite, stai al fianco dell'ospite ogni volta che esce dall'area, sempre. Distribuzione cibo e terapie. Distribuzione del kit ministeriale. Sacco nero le grida, spazzatura col cambio, biancheria. Assistenza, volendo, come dicevano alcuni, psicologica, se ci vuoi parlare. Noi forniamo le condizioni umanitarie. Un tot di cose. Una condizione base. Il mangiare. Il minimo per vivere. E loro, questi qua, vivono. Ma per loro queste sono tutte spese che non... Qui è tutto all inclusive, diciamo. È tutto intorno a te. Lo scorso mese abbiamo anche preso degli animatori. No, degli interpreti, degli intermediatori. Arrivano lì, questa ora è troppo scura questa, è come loro, almeno loro la vedono. Diciamo che li tiene un po' a bada, va? Questi signori, ma non che prima. Ma ci siamo arrangiati benissimo fin lì, intermediatori culturali, ma chiami cosa l'ospite, quello tranquillo. Esce e traduce, no? È sempre stato così. Ma questi parlano italiano meglio di noi. Hanno i figli fuori, sono in Italia da anni a lavorare. Ti ricordo una volta, mi hanno messo di fronte questo Babiscia. Si chiamava Babiscia, modello Two Face, potenziale depresso, con un fregio sulla metà destra della faccia. Lo accompagnavo ogni settimana dallo psicologo, io e le forze armate. Ogni volta che apri, chiudi e sposti l'ospite siamo in 8 contro 1. Allora, ecco qua, ecco. Ospite, polizia, esercito alpino, finanziere, esercito, polizia, finanziere. E si va, tutti quanti insieme, sì, lo accompagniamo, Andiamo con lui fin dentro la stanza dello psicologo. Stiamo lì, ascoltiamo tutto quello che hanno da dirsi. Dove devi uscire con un sorriso, con un mezzo sorriso. Patiscia, gli dicevo. Miracolà. Poi lo riportavamo in cella in stanza. Bello, comodo nel suo modulo, 5 metri per 5, 6 letti, inchiodati a terra tutto cemento, Sette persone per aria. In un attimo si rifaceva i connotati, macinava di quei pensieri che gli tremavano le mani. Croce, sto impazzendo, io non ho fatto niente, cosa ci faccio qui? Si buttava sul materasso di spugna con i desideri pesti dell'insonnia. Alla fine la stanza era un cimitero. Lo trovavi a rotolarsi nella neve, il materasso ridotto in briciole, i fiocchi bianchi come croste di sale sulle sue ferite. Allora lo guardavi in faccia. Capisci? Adesso sei soddisfatto? Dopo un po' che andava avanti così, chiesi al colonnello che cosa avrei dovuto imparare da questa storia. L'altra faccia della medaglia, mi disse, è che nel CIE c'è posto per tutti. E adesso accompagnalo dallo psicologo, non vorrei che si facesse male. Oh cielo! Mi arriva dalla zia la strana mia mania di dar lustro al caro cielo! Di dar lustro al casato. Prendi alla qui suddetta cella, ma no, che dico però, che bella, cielo! Prendete questa sweet luna di miele, ci metto le tendine di pizze di raion. Dar lustro ai più lustri, con gli altri il baston. Chiedetemi asilo, vi insegno il bon ton. Vi dicono che sporco, ma non state lì a sentir. Qui trattasi di neve, punto e basta. Smacchiante, punto G. Per un Natale senza macchia. Solo con i prodotti garantiti da Madame Garante puoi collezionare i punti dell'esclusiva collezione natalizia e ricevere a casa tua tanti fantastici premi. Chi ci ama? Ci segua! È quasi l'ora di mostrarmi ai fedeli. Sono attrezzata bene, ho la mia macchinetta qui, La giardiniera. Oh no, la giardinetta. Ecco la batteria, è un gioiellino. Adesso devo aprire. Ecco qua. Allora, ecco qui. Ci salgo sopra, bella comoda, la metto in moto. Ho la papa mobile e via, e parto, vado. Scoppo, mi faccio i giri. È bellissimo. E quella batteria, spettacolo. Altrimenti sai i chilometri che dovrei farmi a piedi. E invece così, passo in rassegna le aree, le stanze, mi guardo, loro mi vedono, non posso, mi segno. Dall'altro è distanza di sicurezza, e a quelli più, sei stato buono oggi, allora ti assorbo. Scusate! Signori della corte, noi lo chiamiamo Ballanzasca. Bravo ragazzo, Ballanzasca, che cosa sei? Rumeno? Sarà una quinatore. Non fare il bambino. Non siamo all'asilo. Non fare il bambino. Spalle dritte! Petto in su! Signori della corte, è stato trovato all'interno del CIE, dentro una pallina da tennis, oltre il muro, nello spazio aperto. Allora? Glielo dici tu o glielo dico io che cos'è questo? Ne leggiamo una parte, poi solo un pezzettino. Chi ama, brucia. Ed eccoci giunte a cielo, mio marito, la nostra scottante, palpitante posta del cuore. Ci scrive dubbiosa 113. Cara Madame G, ho uno spasimante segreto. Un poeta pare. I suoi versi mi hanno colpito in testa come un oggetto non identificato caduto dal cielo. E io, cara madam, non ci ho capito più niente. Ma il suo biglietto era troppo breve, poi non si è nemmeno firmato. Come faccio a identificarlo? Cara dubbiosa 113, questo è un amore clandestino. L'uomo straniero, pirata o condottiero, è il sogno di tutte. Molte di noi sottovalutano la ricchezza della solitudine. Certo, è triste trovarsi ad aspettare da sole il Natale. Magari quell'unico pacchetto sotto l'albero ci siamo ritrovati a comprarlo per noi stesse perché nessuno ci ha considerato. Magari proprio ora lo stiamo scartando, ma sì, facciamo finta di niente. Sarà il nostro piccolo segreto. E vi ricordo che con i bollini Madame Garante potrete vincere centinaia di fantastici premi che renderanno il vostro. Ecco, sentite? Prego, avanti, lasciate che i bambini vengano a me. Va bene, ho capito, vi racconto quella di Tequila. Cos'è, l'ho già raccontata? Così la chiamo io, Tequila. All'inizio picchia in testa, ma poi fagiullisce. Era questo battito, no? Feroce e paziente. Io me resto qui. Ho 15 minuti di pausa. La mia uniforme nuova, appena stirata. Ho 15 minuti di pausa, me ne sto seduta qui. 15 minuti. È poco o tanto, secondo voi? E sono tanti, 15 minuti con questo nelle orecchie, sono pochi. Beh, puoi passare 15 minuti senza respirare. 15 minuti? Sì. Prima di morire. Questo te lo spiegano, questo te lo dicono subito, appena arrivi, così non ti spaventi quando vedi uno appeso alla corda. Hai tempo di chiamare, di riferire. Hai tempo, diciamo. Se invece vedi che inizia a diventare di tutti i colori, allora è già passato un po' di tempo, allora entra la polizia, sfonda la porta, sa, vieni qui! Oh, croce. Ho bisogno di te. Il tempo è tutto passato qui dentro. Hai 15 minuti, no? Hai tutto quanto il tempo. Allora, sistemi le tue cose. Questa qua. Chiudi l'ufficio. Scendi le scale. Attraversi il corridoio. Esci dalla palazzina. Passi in mezzo alle aree. Gioca. A ingannare il tempo. Ma il tempo... si ferma, no? Basta. Se almeno smettesse di picchiare, 15 minuti! Hai voglia a chiamare? Hai tempo, diciamo, di contare. Una in meno. Nell'isolamento, l'ospedaletto, l'isolamento, ci vanno quelli che hanno una malattia. O quelli che devono essere espulsi il giorno dopo. Loro non lo sanno, eh? Tutte partenze last minute. Allora, per non creare disagi all'interno delle aree, li mettiamo lì. Così quando è il momento li prendiamo da soli. E partono. Ed è proprio laggiù che si è andata a cacciare. Una donna, una badante, tirava delle testate contro il muro, si era aperta la testa, c'era questa che piangeva, si sentivano i tonfi, aveva capito che doveva essere espulsa, l'abbiamo messa nella celletta. Ah! Il mio collega l'ha presa così dalla spalla, perché poi ti fa arrabbiare, questi creano problemi, questi sono problemi, perché tanto poi riparti. L'abbiamo rimessa nella celletta sotto e dopo qualche settimana, boom boom, sei solo una donna che sbatte la testa contro il muro. Cara, per passare questo tempo non hai bisogno di sanguinare. Tequila, ancora che ci provi, ah, ma il ci evide che era una cosa innocua e buff, e la lascio fare. Stava lì, ferma, con le lacrime, non diceva nemmeno o male, anche lì, te lo sei procurato tu il male. Adesso non dico che non ti porto dal dottore, ma devi aspettare, che ci sono altre cose. Loro fanno così, loro dicono, mi faccio male, così vado dal dottore. Vado in ospedale per scappare. E devono uscire, certo. Allora il sunto è questo. Qui non sei idoneo, non ti possiamo trattare. Tipo un cardiopatico, per dire. Non abbiamo le attrezzature, non è un ospedale. Quindi se devi morire, devi morire fuori. No, ma si porta anche all'ospedale, per carità. Sai quanti vanno avanti e indietro? Prassi, polizia, lì, dei carabinieri che lo scortano. Loro non si rendono conto di quello che procurano in generale. Il colonnello me lo aveva detto subito. Tu non ti puoi fidare. Tu devi avere la sfiducia massima di tutti, anche del più bravo che ti sembra. Perché questi cambiano da un momento all'altro. Sono furbi. Ma anche noi siamo furbi. Noi, sì. Che lavoriamo al CIE da tanti anni ormai. È un lavoro. C'è quello che si taglia. Un attimo! Diventa proprio. Ti abitui. Ti abitui. dei diritti personali delle persone private della libertà personale e dei loro diritti personali di libertà personale. Chiamatemi Madama Garante. E voi state ascoltando Aiutati, che il cielo ti aiuta, e siete sintonizzati sull'unica stazione da cui è impossibile ripartire. È arrivato il momento di giocare al nostro quizzone. Quante palle! Quanti ospiti dentro al CIE? So. Vediamo chi si prenota per primo tra i nostri ascoltatori. E vi ricordo che chi indovina si porta a casa il quaderno dell'amore, nuova edizione autografata dall'autrice per questo video. Ma vediamo se il telefono squilla. Ah, bravo, devi darmi retta, eh. Pronto? Pronto, chi è? Carina, ma non importa. Mi sai dire quante palle ci sono qui vicino a me sul mio albero di Natale? E senti il titi mio, carina, senti come sbattono. Non so cosa seguivo la posizione ieri. Ma tanto non hanno indovinato. Sono 72. Sono di più, sono di più. Si vede proprio che non ci segui, eh. Passiamo al prossimo, pronto? Guidare la corsa, corrono, scappano, fanno le rivoluzioni, attraversano le città bombardate, i villaggi abbandonati, i deserti, i mari, il mondo intero. E anche adesso corrono dentro al CIE, no, nel campo da calcio, dentro alla recinzione, dietro un'altra recinzione, dietro il cancello, circondati da un muro, guardati a vista. Cari miei, se non ci fosse un approdo, ce ne staremmo chiusi qui dentro. Noi contro di loro. Continuano a correre. Continuiamo a inseguirli. Moto perpetua, maratona infernale, l'opera del CIE. Mia mano neri scuri in cui ho passato la vita e che poco sono finita, che poco mi sono ritorta. La disposizione di sicurezza è entrata in funzione. Fate un passo indietro. Agganciate la scuola. Sbloccate il portellone di emergenza a scorrimento. Evitate il contatto con il vostro. Stendetevi a terra e strisciate attraverso il muro. Voglio la caramella che mi piace tanto e che fa ri ri ri ribotri, ri ri ri ribotri. Ma perché tu sei ribelle? Perché voglio un mondo in nero. Ribotri, questo Natale è il regalo da assaggiare. Voi siete i figli dell'avvento. I figli del grande contagocce. Siete venuti qui? Tenete un segno? Un regalo dal cielo? No. Nei giorni prima di Natale. Facciamo il presepe vivente. Ora, voi conoscete le regole del gioco? Il regolamento io non l'ho mai letto. L'abbiamo scritto in arabo. Ma noi lo conosciamo, eh? Noi lo conosciamo, lo comprendiamo, come i ciechi conoscono il mondo, toccandolo con mano. E con voi non ci sono regole. Non abbiate fretta. Questo è il segreto dell'avvento. Al CIE non c'è data di scadenza, imparate ad aspettare. Ti teniamo d'occhio, ci siamo capiti? Ti stiamo a guardare. Stai in un presepe a cielo aperto. Ci sono tutti i palazzoni intorno. E da lì, da quei balconi, chiunque può affacciarsi, seguirci, commentare. Assapora l'atmosfera del Natale. Prendi uno sdraio, un telescopio e mettiti a spiare, a guardare. Voglio dire, è naturale. Tu non sei un detenuto, sei un ospite, un figurante. E stai tranquillo. Qui puoi fare tutto quello che vuoi. Puoi farti vedere. Puoi sceglierti la parte, noi non è che ci arrabbiamo. Vuoi fare il mago, il pastore, la pecora? Beh, fammici pensare. Tanto fermo qui, fermo. Devi stare. Soltanto qui ci sono le luci più belle di giorno e di notte. Ah, e poi le telecamere. Per la privacy, le telecamere, e poi anche le luci di emergenza. Ecco qua. Il ronzio dei neon delle telecamere. Bello, eh? Qua ti prendi tutti i riflettori, ma fuori di qua, io e te siamo uguali. Vieni avanti, fammi vedere. Siete figli dell'avvento, siete il mio presepe vivente. Così, le mani unite a coppa, il corpo e il sangue versato, il vostro volto sintetizzato nel contagocce da me innalzato. Piccole facce nel vetro specchiate, piccoli becchi aperti e sbattere di forchette sulle grate come campanelli. Medicina, aspirina divina. e neanche una goccia di speranza qui dentro. Si sfoglia il calendario. 20 dicembre, 21 dicembre, un zuccherino. Lo vuoi, fratellino? Una promessa non si nega a nessuno, L'ansiolitico goccia a goccia. Da leccare bene il fondo. Rivatril, ecco qua. Va giù che è un piacere, E gocce di toradol per i dolori, e l'aulin bevuto, mangiato, fumato. Dolce silenzio di chi l'ha sublimato. Non siamo ancora a Natale, ma manca poco. E se fai il bravo, falli aspettare. Fatti desiderare, per te il turno finisce. È l'avvento che si deve prolungare. Ogni tanto una goccia che si devono aggiustare. Ogni tanto 5 gocce, 15 gocce. Te li tieni interi e fedeli. Te li tieni con la luna negli occhi. Innamorati pazzi e di notte spalancano la testa oltre le sbarre e ululano al cile. Metti qua dentro e fuori di testa. Vanno avanti a gocce che il dottore dice. Ma questi come fanno? Noi umani, noi persone normali, 5 gocce. Loro botte di 40, 60 gocce, cose. Loro dentro sono forti, Sono potenti, indistruttibili, supereroi. Libertà, libertà, urria! Questi qua, se li pesti, questi risolgono, tranquilli, tutti spezzati, Libertà, chiama brucia, siete degli schifati! E perché hanno qualcosa, no? Sì. Hanno anche loro un cuore, come il nostro, il fegato, i polmoni. Ma questi come fanno? Chiama brucia, libertà! Perché hanno qualcosa, hanno che cosa che avete? La rivolta negli occhi. Non vorrete mica scappare? No, figli miei. L'omelia del Santo Natale che vi incendia. No, figli miei. Voi non potete bruciare. Voi non potete volare. Voi siete ignifughi, capite? In mezzo alla neve io vi vengo a cercare. Dove siete? Bambini? Dove siete andati a finire? Allora? Dove siete? Così non andiamo da fuori. No, non andiamo a fare nulla. Alla sessione che si fa durante il Ramadan, e alla festa finale